Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Alla vigilia del complesso vertice di Vilnius con l'Europa che guarda ad est si apre il dibattito tra Commissione Europea e Gran Bretagna. Il premier inglese David Cameron vorrebbe limitare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. Questo il senso di un suo articolo pubblicato oggi sul Financial Times, preoccupato dalle ampie migrazioni registrate soprattutto dai paesi dell'est dopo il loro ingresso in Europa. Cameron sottolinea la necessità di tornare a un concetto di libertà di movimento più ponderato, dice, e di fare lo stesso per quanto riguarda il welfare. Ma a replicare da Bruxelles il commissario per gli affari interni, Cecilia Malmström. La libertà di circolazione è un diritto fondamentale dell'Unione Europea che la Commissione Europea difende, ha detto. E dello stesso parere la vicepresidente della Commissione Viviane Reding, la libertà di movimento delle persone non è negoziabile perché il pilastro fondamentale del mercato unico che sta molto a cuore della Gran Bretagna. Tutto questo dicevamo alla vigilia del vertice di Vilnius. Domani saranno solo Georgia e Moldova a firmare l'accordo con l'Unione Europea che prevede anche il libero scambio. Ben più complicata la questione ucraina, in cui pesano i rapporti con Mosca. L'arte antica della diplomazia va in scena a Kiev. Il presidente Yanukovych domani sarà al vertice di Vilnius, nonostante la decisione di sospendere l'accordo di libero scambio con l'Unione Europea. Una scelta indotta, quasi obbligata, dalle condizioni economiche, così almeno sostengono con sfumature diverse presidente e primo ministro ucraini. Molto diverse le sfumature, a dire il vero. Questa mattina il premier Azarov ha affermato che le trattative con l'Unione proseguono. Nei giorni scorsi Azarov ha più volte ribadito che lo stop era dovuto a ragioni economiche e non a una scelta politica dettata da pressioni russe. Il processo di negoziazione va avanti e il lavoro per avvicinare il paese agli standard europei non si fermerà un solo giorno. Più netto e anche più piccato il presidente Yanukovych. Per adeguarsi all'Europa servirebbero oltre 100 miliardi da qui al 2017. Le condizioni non sono vantaggiose per Kiev. Russia e Ucraina hanno comunque convenuto sulla necessità di un tavolo a tre con Bruxelles per fare in modo che i grandi non si pestino i piedi e che la piccola Ucraina non resti schiacciata. Meglio non fare troppe pressioni adesso, sostiene l'eurodeputato bulgaro Kirilov. Il processo di integrazione con l'Europa riprenderà. È vantaggioso per entrambi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Accordo fatto invece dopo 6 anni di stallo tra Consiglio e Parlamento europeo sulla portabilità delle pensioni. I lavoratori europei potranno spostarsi da uno dei 28 paesi dell'Unione all'altro mantenendo i loro diritti pensionistici integrativi. Un accordo illustrato questa mattina dalla parlamentare olandese capo delegazione Ria Homnen-Ruijten. È un dossier difficile, avete sentito, lo ha definito. Fino ad oggi erano garantiti i diritti previdenziali di base, ma non gli schemi pensionistici finanziati o cofinanziati dai datori di lavoro o i prodotti pensionistici individuali. Chi si spostava correva il rischio di perdere i contributi cumulati. Attacco hacker al sistema informatico del Parlamento europeo, fuori uso posta elettronica e wifi nei palazzi di Bruxelles. Si è inserito nelle caselle email di 6 eurodeputati e di 8 collaboratori del Parlamento europeo. Recuperate le password, si è intrufolato indisturbato nella loro corrispondenza privata. Per fortuna si è trattato di un pirata informatico etico, il cui fine non era nuocere, ma dimostrare la debolezza del sistema informatico dei palazzi di Bruxelles e Strasburgo, sino a quel momento ritenuto inespugnabile. Obiettivo centrato in pieno. L'attacco hacker ha provocato, oltre che stupore e indignazione, lo spegnimento del sistema Wi-Fi dell'Europarlamento fino a nuovo avviso e il caos della posta elettronica. L'organizzazione ha dovuto inviare circa 4.000 messaggi di scuse a funzionari, dipendenti ed europarlamentari. Le indagini per individuare chi sia stato e come abbia agito sono in corso. Pare che il pirata si sia introdotto da una falla della rete wireless pubblica dell'Europarlamento armato di un normale computer portatile. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Europa vi aspetta domani, come sempre, alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.